Tu sei importante. Leggo nella Bibbia, in Esdra capitolo 2, versetti 1 a 7 e versetti 64 a 67. Questi sono gli uomini della provincia che tornarono dalla deportazione, quelli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva condotti schiavi a Babilonia e che tornarono a Gerusalemme e in Giuda, ognuno nella sua città. Essi giunsero con Zorobabel, Jesua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum, Bahana. Lista degli uomini del popolo di Israele. Figli di Paros, 2172. Figli di Sefatia, 372. Figli di Ara, 775. Figli di Pacat Moab, discendenti di Jesua e di Joab, 2812. Figli di Elam, 1254. La comunità nel suo insieme contava 42.360 persone, senza contare i loro servi e le loro serve, che ammontavano a 7.337. Avevano anche 200 cantanti, maschi e femmine. Avevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli e 6.720 asini. Qualche settimana fa ho avuto l'occasione di partecipare ad un incontro in cui attraverso foto e testimonianze si ripercorreva la storia di una comunità evangelica in un paese del Foggiano, Monte Sant'Angelo. È stato piuttosto commovente ascoltare il modo in cui Dio ha operato attraverso uomini e donne del passato, persone semplici, molte delle quali senza alcuna istruzione formale, tutti accomunati da un profondo amore per Dio. Mentre scorrevano le foto e venivano ricordati i momenti salienti della vita di quella comunità locale, venivano citati molti nomi di persone che ha avuto il privilegio di conoscere, ma anche tanti di cui non avevo mai sentito parlare. Ascoltando quei nomi, non ho potuto fare a meno di pensare che Dio conosce ognuna di quelle persone che si sono prodigate per predicare la buona notizia in quel piccolo paese. Che abbiano fatto poco o tanto, ognuno di loro è prezioso agli occhi di Dio. Anche nella Bibbia si trovano molti elenchi di nomi e sono convinto che molti lettori della Bibbia passano oltre questi elenchi che sembrano non aver nulla da dire all'uomo moderno. Quello che abbiamo letto nel libro di Esdra, solo in parte per restare nello spazio usuale di queste riflessioni, riporta con precisione meticolosa i nomi delle famiglie che sono tornate insieme a Zorobabele dall'esilio a Babilonia dopo l'editto di Ciro nel 538 a.C. Ciò che mi ha impressionato di tale elenco è il fatto che il numero dei componenti di ogni famiglia è riportato con la precisione dell'unità. Non sono circa 2.000, ma sono 2.172. Non sono un totale di circa 42.000 persone, ma sono 42.360 persone. I servi e le serve non sono circa 7.000, ma 7.337. Persino cavalli, cammelli, muli e asini sono stati contati con precisione. Per gli israeliti le genealogie erano molto importanti perché permettevano ai discendenti di sapere chi erano i propri avi e quindi di conoscere la propria tribù di appartenenza, cosa fondamentale anche per l'assegnazione dei territori e la gestione dell'eredità. Immaginiamo inoltre la gioia e l'incoraggiamento dei pronipoti di quegli esuli che erano ritornati in patria, quando leggevano il nome della propria famiglia e si ricordavano di ciò che i loro nonni avevano fatto. Questi elenchi però mi fanno pensare soprattutto che la precisione è importante anche per Dio, non solo per gli uomini. Dio conosceva ognuno di quegli israeliti che si erano messi in cammino per tornare a ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Ognuno di loro è stato contato, perché ognuno di loro era importante. Se esistessero degli annali in cui venisse riportato ciò che ognuno di noi ha fatto, cosa leggerebbero i nostri nipoti in quegli annali? Cosa ci sarebbe scritto di rilevante a nostro riguardo? Avremmo lasciato qualcosa di buono da ricordare a coloro che sono venuti dopo di noi? anche se tali annali non esistono, anche se non ci saranno incontri come quello di Monte Sant'Angelo, in cui qualcuno si ricorderà di noi, possiamo comunque essere certi che Dio conosce con precisione anche ognuno di noi. Questo pensiero è molto incoraggiante. Quando ti senti stanco e ti sembra che il tuo lavoro per il Signore non abbia alcun riconoscimento, ricordati che hai un padrone attento che ti chiama per nome e conosce tutto di te. Egli non mancherà di ricompensare i suoi figli che lo hanno servito fedelmente. Ai suoi occhi tu sei importante.